Kant che Moses Mendelssohn, poco dopo la pubblicazione della Critica della ragion pura, aveva chiamato lo schiacciatutto a motivo della sua critica alle prove di Dio, si è occupato per tutta la vita del problema della conoscenza di Dio e non soltanto in senso negativo. Si sente, per favore? Va bene. Gli scritti di Kant intorno a questo problema si possono raggruppare in quattro blocchi. Primo, i due scritti del 1755. Secondo, l'unico argomento possibile del 1763. Terzo, la critica alla teologia naturale nella Critica della ragion pura. Quarto, la prova morale nelle tre critiche e nello scritto sulla religione. In questa relazione orale mi limiterò a tracciare la direzione generale del pensiero teologico di Kant, accennando al nerbo delle singole prove o rispettivamente della critica alle singole prove. Una esposizione più approfondita la dedicherò alla prova morale, in quanto che questa prova ha la sua continuazione nella concezione kantiana della religione. Come noi conosciamo Dio in forza della dimensione morale del nostro essere, così il nostro rapporto con Dio, la religione, si risolve nella vita morale. Primo, la domanda di Dio nella cosmogonia kantiana e nella nova delucidatio. Nella storia universale della natura e teoria del cielo, Kant allarga la spiegazione meccanicista del sistema solare, già elaborata da scienziati come Keplero e Newton, sia alla costituzione dell'intero universo, sia alla origine di esso. Esattamente nella trattazione dell'origine del mondo, in virtù delle forze meccaniche delle quali è dotata la materia, Kant affronta il problema di Dio. La versione tradizionale della fisico-teologia prendeva l'avvio dalla bellezza, dall'ordine, dalla finalità della natura. Tutto ciò, argomentavano i pensatori del tempo particolarmente interessati ai risultati della ricerca scientifica, tutto ciò può essere solo il frutto di un piano escogitato da Dio e da Lui attuato con interventi ad hoc negli ordinamenti e negli eventi della natura. Per Kant, invece, non è l'incapacità della natura a produrre da sé alcunché di ordinato a dimostrare che deve esistere un creatore trascendente, bensì piuttosto la sua capacità. Cito, esiste Dio proprio perché la natura, anche nel caos, non può operare se non in maniera regolare e ordinata. In altre parole, la sufficienza della natura a spiegare il formarsi e l'operare del mondo è una sufficienza partecipata. La natura è stata ordinata finalisticamente secondo un piano nella mente divina. Ma questo piano essa lo attua in forza delle leggi meccaniche costitutive della materia. Nella dissertazione Nova Delucidatio dello stesso anno, Kant affronta di nuovo il problema di Dio nel contesto della trattazione del principio di ragion sufficiente o determinante. Kant restringe la validità di questo principio agli enti contingenti, in quanto che ammettere nell'essere assoluto una ragione sufficiente della propria esistenza condurrebbe al concetto assurdo di Dio come causa sui. Ma alla tesi, la quale esclude che qualcosa possa avere in se stesso la ragione della sua propria esistenza, Kant fa seguire la confutazione dell'argomento cartesiano facendo ricorso, sorprendentemente, alla tradizionale distinzione tra esistenza meramente pensata ed esistenza reale, il che implica, logicamente, che in Dio l'essenza è ragione o causa dell'esistenza, mentre viene negato solo che tale fondamento dell'esistenza in Dio stesso possa per noi fungere da ragione che ci fa conoscere l'esistenza reale di Dio. Se il principio di ragion sufficiente non permette di dimostrare l'esistenza di Dio a partire dal concetto di Dio, può però venire usato validamente per un altro tipo di dimostrazione a priori. Nello scritto sull'unico argomento possibile, Kant chiamerà questa sua prova di Dio prova ontologica. Ma, per non confonderla con la prova anselmiano-cartesiana che Kant nella Critica della ragion pura chiamerà ontologica, preferisco chiamare la dimostrazione kantiana del 55 e del 63 prova ontoteologica, in connessione con una riflessione di Kant dove appunto usa questo termine. Il punto di partenza è dato dalla possibilità delle cose, più precisamente dagli elementi materiali dati al nostro intelletto e con i quali noi formiamo i concetti di cose possibili. Ora, se fatti contenuti reali non potrebbero venire dati al nostro pensiero se non esistessero realmente, anzi, se non godessero di un'esistenza assoluta. Infatti, se ciò non fosse, non sarebbe possibile nulla. Il possibile presuppone evidentemente l'esistente. E questo, non sarebbe possibile nulla, e questo è per Kant impossibile. Dunque, tutto il reale del possibile esiste radunato in un essere assolutamente necessario. Il secondo blocco degli scritti dedicati alla domanda su Dio è l'opera metafisica del 63, l'unico argomento possibile per dimostrare l'esistenza di Dio. Le prime due parti riprendono e sviluppano le prove del 55. La prima parte riprende la prova, riprende l'ontoteologia della Nova Delucidatio. La dimostrazione viene introdotta con una meditazione sull'essere in generale, dal momento che si tratta di provare che il possibile presuppone l'esistente. L'essere non è un predicato, scrive Kant. Non è un predicato reale, dirà con più esattezza nella Critica della ragion pura. Cioè, non è un contenuto che determina il concetto di una cosa, cioè in virtù dell'essere una cosa, non è un contenuto che determina il concetto di qualcosa di possibile. L'essere è invece la posizione assoluta di una cosa, cioè in virtù dell'essere una cosa con tutti i suoi predicati viene posta assolutamente e con ciò viene posta in se stessa. L'ontoteologia parte, come già dicevo, dalla possibilità intrinseca delle cose. Ora, questa possibilità verrebbe meno nel suo principio materiale se ogni esistente venisse eliminato. Questa affermazione ha nell'economia della dimostrazione un duplice significato. Primo, essendo il possibile qualcosa di derivato, se qualcosa è possibile, allora si dà un esistente. Secondo, deve darsi un esistente, cioè l'ens necessarium. L'ens necessarium esiste, perché la sua mancanza avrebbe come conseguenza l'eliminazione di ogni possibile. Ora, per Kant, nulla di possibile equivale a impossibile. L'ontoteologia di Kant sta o cade con il principio della impossibilità che non ci sia nessun possibile. E siccome la prova conclude all'ente necessario in virtù della impossibilità di eliminare la componente materiale o reale del possibile, Kant chiama la necessità dell'ente necessario così concepito necessità reale assoluta. Questo reale, assolutamente esistente, è il fondamento, Grund, di ogni possibilità. Ma se il reale della possibilità si fonda sull'esistente necessario, allora le cose, in quanto hanno origine dal medesimo essere supremo, sapiente e buono, costituiscono un tutto unitario, armonico, ordinato finalisticamente, hanno cioè quelle proprietà sulle quali si fonda la prova fisico-teologica. Per questa ragione, Kant fa seguire al suo unico argomento possibile una nuova versione della fisico-teologia. Ma qui, andando oltre la storia naturale, Kant distingue un duplice ordine di natura. C'è un ordine che si fonda sulla possibilità stessa delle cose, cioè sulla loro essenza, e in questo senso è necessario. C'è un altro ordine, il quale è contingente. Esso viene bensì attuato dalle forze meccaniche della natura, ma solo in quanto esse vengono usate da Dio per attuare ordinamenti e finalità delle quali le forze e le leggi della materia da sole non sarebbero capaci. Si tratta di un intervento particolare di Dio al di là dell'atto con cui egli ha dato origine alla materia. A questo duplice ordine naturale corrispondono due diverse fisico-teologie. C'è una fisico-teologia secondo il metodo abituale, la quale prende in considerazione l'ordinamento contingente del mondo. Essa è in grado di concludere solo a un architetto del mondo che ha ordinato una materia da lui non creata. E c'è anche un metodo emendato della fisico-teologia, il quale prende in considerazione l'ordinamento necessario del mondo, cioè quell'ordinamento che deriva dalla materia stessa, con le sue forze e le sue leggi. Qui l'autore dell'ordine è al tempo stesso il creatore della materia, in quanto che questo ordine proviene direttamente dalla materia. La terza parte dello scritto del 63 riveste un'importanza eccezionale nei confronti della posizione che Kant andava prendendo quanto alla conoscenza di Dio mediante la ragione. In questa parte, infatti, il momento negativo, che già si era delineato nella dissertazione del 55, prende il sopravvento. Kant formula la tesi che tutte le altre prove di Dio, mediante la ragione speculativa, all'infuori del suo unico argomento, sono invalide. Si tratta dell'altra prova a priori, quella cartesiana, e di due prove a posteriori, quella della contingenza e quella della finalità. Nelle pagine che seguono, queste tre prove vengono sottoposte a esame e confutate. Dal punto di vista dello sviluppo del pensiero di Kant, il significato di questa critica sta nel fatto che con essa Kant è arrivato a quella posizione che egli manterrà essenzialmente immutata nei decenni successivi. Il famoso capitolo della prima critica, la critica della ragion pura, dedicato a confutare qualsiasi teologia fondata su principi speculativi della ragione, altro non farà che riprendere questa medesima critica. Ora, siccome nel 62, l'anno in cui l'opera venne composta, la cosiddetta svolta copernicana non era neppure lontanamente all'orizzonte, basta un semplice confronto tra la sezione conclusiva dell'unico argomento e il capitolo della critica della ragion pura dedicato alla teologia naturale, per concludere con certezza che la famosa critica kantiana alle prove di Dio, considerata da molti come il risultato più significativo del criticismo, in realtà non ha nulla a che vedere con il criticismo nella versione dell'idealismo trascendentale, proprio della critica della ragion pura. È una delle tante leggende che sono sorte intorno alla critica della ragion pura. Una leggenda che i testi, chiaramente, che qualsiasi può considerare, non è sufficiente, non è bastata a confutare. Per questo motivo ritengo opportuno esaminare i due testi, quello del 63 e la critica della ragion pura, contemporaneamente. Essi costituiscono il terzo blocco di scritti intorno alla domanda di Dio. Terzo, la critica a ogni teologia fondata sui principi della ragione speculativa, nell'unico argomento possibile e nella critica della ragion pura. Confutazione della prova cartesiana. La prova si fonda sul concetto di Dio quale ens perfectissimum e deduce da esso l'esistenza di Dio. Nella sua confutazione Kant ricorre a quanto ha detto intorno all'essere nella prima meditazione della prima parte. L'essere non è un predicato. Per cui, mentre rispetto alla proposizione Dio è onnipotente, io non posso, senza contraddizione, negare il soggetto, mantenere il soggetto Dio e negare il predicato onnipotente, in quanto che il predicato onnipotente è contenuto nel concetto stesso di Dio, quale essere perfettissimo, rispetto alla proposizione Dio è, posso negare senza contraddizione il predicato. Infatti, negando l'esistenza di Dio, elimino il soggetto stesso, per cui non deriva nessuna contraddizione tra soggetto e predicato. Confutazione della prova dalla contingenza. Nella ricostruzione della prova classica di Dio a partire dalle cose di questo mondo, Kant si rifà largamente alla versione wolfiana. Caratteristica di quest'ultima è una netta cesura tra la dimostrazione che esiste qualche cosa di necessario e l'ulteriore dimostrazione che questo necessario è Dio. Il primo passo della dimostrazione conclude dagli esistenti, nell'ambito della nostra esperienza, a un ente necessario. Questo ente necessario, raggiunto in forza del principio di ragion sufficiente, è, afferma Kant, necessario in senso logico. È necessario perché, a differenza delle cose contingenti, ha in sé l'essere, cosicché la sua esistenza non può venire negata senza contraddizione. Alla domanda perciò, chi è questo ente necessario? La prova risponde, è l'ente realissimo o perfettissimo, quindi Dio. Perché l'ente realissimo e solo esso esiste necessariamente nel senso di una necessità logica. Ciò che è perfettissimo ha tutto in sé, anche l'esistenza, quindi esiste di una necessità logica. Ma questo argomento che permette di identificare l'ens necessario con Dio, altro non è che la prova cartesiana già confutata. Dunque, l'argomento della contingenza, poiché ultimamente fa uso della prova cartesiana, è esso pure invalido. Confutazione della prova fisico-teologica. Anche la prova fisico-teologica, abbozzata nel 55 e poi elaborata nel 63, nonostante che Kant le abbia sempre riconosciuto un valore persuasivo per il senso comune, non regge a una critica severa. Il motivo è che la bellezza, l'ordine, la finalità nel mondo sono realtà limitate. Dunque, in base al principio che la causa deve essere proporzionata all'effetto, la causa del mondo sarà sì di un'intelligenza e potenza straordinarie, ma non sarà infinita. Analogamente, Kant argomenta contro l'unicità della causa del mondo. Noi non sappiamo se l'intero universo, al di là della porzione a noi nota, abbia un carattere unitario. Pertanto non possiamo arrivare a sapere con certezza l'unicità del suo autore. Conclusione, la causa del mondo non è necessariamente quell'essere infinito e unico che noi intendiamo quando parliamo di Dio. Trasformazione critica della prova ontoteologica. Mentre la pubblicazione del 63, pur respingendo le tre prove di Dio allora abituali, riconosceva un unico argomento, quello a partire dalla possibilità delle cose, nella critica della ragion pura Kant parla di tre possibili modi per dimostrare l'esistenza di Dio da parte della ragione speculativa, i tre che abbiamo visto essere invalidi. La domanda si impone, dove è andata a finire nel frattempo la prova ontoteologica. L'indagine sullo sviluppo del pensiero di Kant dopo il 63 è in grado di sciogliere l'enigma. Tale sviluppo si mosse in una direzione empirista. Il nostro concetto del possibile, dice Kant, è derivato dall'esperienza. Ma se il concetto del possibile è a posteriori, allora non è in grado di fondare una dimostrazione di Dio a priori. Ciò nonostante, Kant non abbandonò del tutto il suo argomento ontoteologico, bensì lo trasformò in una dottrina nella quale i medesimi elementi strutturali vengono usati per una sistemazione diversa e pertanto conducono a un risultato diverso. All'ideale trascendentale della ragione, il quale tradisce un'analogia, arriva all'ideale trascendentale della ragione, il quale tradisce un'analogia evidente con l'essere realissimo al quale concludeva l'ontoteologia. Due sono gli elementi importanti che conducono a riconoscere questo ideale. Primo, la conoscenza delle cose limitate dell'esperienza presuppone in noi il concetto di una realtà illimitata. Secondo, le medesime cose in quanto completamente determinate rimandano all'idea in noi di un insieme di tutti i predicati. Con ciò l'argomentazione metafisica di un tempo venne trasferita su un piano puramente concettuale. L'ideale trascendentale della ragione rappresenta la condizione di possibilità della nostra conoscenza dei possibili finiti e delle cose finite, senza peraltro essere esso stesso necessariamente una realtà che fonda la possibilità reale delle cose. E le prime due sezioni nella dialettica della critica della ragion pura, dedicata alla teologia razionale, incominciano proprio con questo ideale trascendentale, che non è niente altro che, dicevo, la ontoteologia di una volta trasformata, portata da una prova metafisica a un'argomentazione puramente concettuale. Quarto, la prova morale dell'esistenza di Dio. Il risultato della ricerca fin qui condotta può venire riassunto nel modo seguente. Da un atteggiamento positivo nei confronti della conoscenza di Dio, la critica è andata prendendo il sopravvento, tanto che, verso la metà degli anni 60, Kant non riconosceva più nessuna dimostrazione di Dio mediante la ragione speculativa, neanche più il suo unico argomento possibile. Ma già al termine dello scritto del 63 si incontrano riflessioni in aperto contrasto con la conclamata certezza e rigorosità dell'argomento ontoteologico. A coloro che non sono in grado di arrivare alla conoscenza di Dio lungo il sentiero impraticabile da lui tracciato, Kant consiglia di avviarsi per la strada maestra della ragione umana. Perché, osserva nella prefazione, la provvidenza non ha voluto che conoscenze sommamente necessarie per la felicità poggiassero su sottili ragionamenti. Al contrario, le ha affidate direttamente alla naturale intelligenza comune. Questo motivo di una persuasione esistenziale venne chiarito ulteriormente 3 anni dopo nei 2 ultimi capoversi dei Sogni di un visionario, chiariti con i sogni della metafisica. Il testo, ispirato alla professione di fede del vicario savoiardo nelle Mille, che Rousseau aveva pubblicato nel 62, parla di una fede morale, con la quale, meglio che con il grande armamento della erudizione, i veri fini dell'esistenza umana, cioè la morale e la religione, sono in salvo. Esiste infatti un nesso tra le prescrizioni morali contenute nel cuore dell'uomo da una parte e la speranza in una vita futura, nonché la fede in Dio dall'altra. Questa via morale di accesso a Dio rappresentò da allora in poi il motivo dominante nello sviluppo del pensiero teologico di Kant, Con essa, con questa via, tutte le dimostrazioni mediante la ragione speculativa si rivelarono superflue. In fondo, sono possibili soltanto due versioni della prova morale, in corrispondenza a due tratti essenziali della legge morale. Primo, la legge morale è contrassegnata ad una obbligatorietà assoluta. Secondo, la legge morale ha un fine suo proprio. Conseguentemente, una prima versione della prova morale chiede del fondamento dell'obbligazione morale. Per questa via, Dio ci si dischiude come colui che dà il comando «tu devi». Kant conosce questa versione della prova, ma non è questa la via che egli ha percorso là dove si è accinto a fondare la fede morale nell'esistenza di Dio. Il motivo per cui Kant si è scostato dalla prova morale tradizionale va individuato nella sua dottrina intorno alla autonomia dell'uomo. La sua concezione del potere legislativo della coscienza gli impediva di far risalire l'imperativo morale a Dio. Una seconda versione domanda del fine della legge morale. A che cosa conduce ultimamente l'obbligo incondizionato che la legge morale ci impone? È in connessione con questa domanda che Kant ha elaborato una sua prova morale di Dio. Nella Critica della ragion pura, al capitolo secondo della dottrina trascendentale del metodo, Kant formula quella domanda della speranza che l'imperativo morale della coscienza ci conduce a porre. Che cosa mi è lecito sperare? Questa domanda significa: se faccio ciò che debbo, che cosa mi è lecito sperare? Ora, prosegue Kant, con l'osservanza della legge morale, l'uomo diventa degno di essere felice. È la ragione stessa che coglie questo nesso essenziale tra virtù e felicità. Ma la felicità presuppone l'esistenza di un essere supremo capace di realizzare una felicità corrispondente alla morale, come pure di garantire alla persona umana una sopravvivenza oltre la morte, nella quale questa ricompensa venga concessa. Dunque, la nostra ragione teoretica è autorizzata ad ammettere l'esistenza di Dio e una vita futura, in quanto che queste due realtà sono presupposti connessi con l'obbligatorietà della legge morale. Che la prova morale nella prima critica si basi effettivamente sulla connessione intrinseca tra legge e felicità è confermato da quanto Kant scrive in seguito. Con diverse espressioni Kant afferma che, cito, senza un effetto adeguato, l'imperativo morale non ha per noi nessuna forza vincolante. Tesi questa che sta in contrasto con l'autonomia dell'imperativo morale che è fondamentale per la etica kantiana. Il tentativo di trovare una terza via, oltre le due già indicate, contrassegnò gli sforzi di Kant dopo l'81. Al dilemma, o validità della legge morale, a condizione di annullare l'autonomia, oppure mantenimento dell'autonomia, a condizione di rendere impossibile il fine e pertanto a condizione di una legge morale senza senso, Kant ritiene di potersi sottrarre introducendo nella seconda redazione della prova, nella critica della ragion pratica, un comando particolare. Il comando è questo: noi dobbiamo cercare di realizzare il bene sommo. Se si considera attentamente la cosa, ci si rende conto che oggetto di questo comando è propriamente solo una componente del bene sommo, la felicità. Infatti, che noi siamo tenuti ad agire in conformità alla legge morale consta già senza far ricorso al concetto di bene sommo. Qui, in questo comando, sta la novità della seconda redazione della prova morale. Con questo comando Kant ha, apparentemente, ottenuto che l'obbligatorietà della legge morale venga disgiunta dalla realizzazione della felicità e dalla esistenza di Dio presupposta da questa realizzazione. Infatti, la negazione dell'esistenza di Dio importerebbe, logicamente, non la negazione della obbligatorietà della legge morale nella sua totalità, bensì solamente la negazione di questo comando singolo, in quanto irrealizzabile, ferma restando la validità della legge morale in quanto tale. Esattamente questa conseguenza Kant la tirerà nella sua terza e ultima redazione della prova morale. Nell'appendice alla critica del giudizio teleologico, paragrafo 87, Kant riprende la prova della seconda critica. Anche qui il comando di realizzare il sommo bene, un comando che l'uomo autonomamente emette, ma che egli subito scarica su Dio, essendo egli di principio incapace di attuarlo, ha la funzione, questo comando, ha la funzione di neutralizzare il formalismo dell'etica kantiana, restituendo all'agire morale un fine adeguato alla assolutezza dell'imperativo, senza però scontrarsi con il principio dell'autonomia. Il comando, infatti, proviene dall'uomo stesso. Per cui, argomenta Kant, non la validità della legge morale in generale, bensì solo il proposito di realizzare il bene, il fine ultimo di questo comando, dipende dal presupposto dell'esistenza di Dio. A questa realizzazione, ma solo a essa, sarebbe necessario rinunciare nel caso che Dio non esista o nel caso che uno arrivi a questa persuasione. Che cosa concretamente questo significhi lo illustra Kant in maniera drammatica mediante l'esempio di, cito, un uomo onesto, per esempio Spinoza, il quale non crede né in Dio né in una vita futura. In questo caso il fine intrinseco dell'uomo, in virtù della legge morale, non può essere altro che, cito, un ampio sepolcro che alla fine li inghiotte tutti quanti, onesti o disonesti, qui non si fa differenza, e li rigetta, essi che si credevano allo scopo finale della creazione, nell'abisso del caos cieco della materia dalla quale erano stati tratti. Fine della citazione. Che Kant qui imperterrito sostenga l'obbligatorietà incondizionata di un imperativo morale il cui risultato finale è il nulla, corrisponde indubbiamente alla logica del suo formalismo. Ma, immediatamente di seguito, pare che non sia più così sicuro della sua posizione. Infatti, esprime il timore, Kant, che la nullità dello scopo ultimo possa infirmare la volontà di obbedire alla legge morale, in quanto che l'uomo si renderebbe conto dell'assurdità di una obbligazione assoluta indirizzata a nulla. Perciò, conclude Kant, quest'uomo onesto dovrà, allo scopo di salvaguardare la sua intenzione morale, cito, ammettere l'esistenza di un autore morale del mondo. Questa conclusione del tutto contraria alla logica dell'argomentazione precedente equivale di fatto alla confessione che il tentativo di fondare una legge, una morale etsi deus non daretur è fallito. E la medesima svolta improvvisa e illogica la si trova in tutti gli altri passi dove Kant ripropone questa sua prova, e la si trova anche nella ultima versione, cioè nella prefazione allo scritto sulla religione. Anche qui Kant dice: l'uomo deve obbedire anche se tutto finisce con la vita terrena. Però deve, questo è assurdo, allora deve reintroduce Kant il fine, e una volta che ha reintrodotto il fine può sviluppare la prova morale. La prova morale di Dio è il problema di un'etica eudemonistica. Esaminata la prova morale di Dio, è opportuno prendere in considerazione un'obiezione che sempre di nuovo viene sollevata contro di essa. La chiave di volta del postulato kantiano sta nella connessione tra felicità e moralità. E questo, così l'obiezione, va contro la purezza della moralità. Un uomo autenticamente morale, si obietta, è colui il quale agisce disinteressatamente, cioè obbedisce all'imperativo della coscienza e fa il bene a prescindere dal fatto che gli venga assicurato un vantaggio, perlomeno in una vita futura. Si tratta dunque di sapere se la prova morale di Dio implichi, non solo in Kant, bensì di principio, una morale della ricompensa, eine Lohn Moral. Anzitutto, che cos'è quella felicità che nella dimostrazione funge da fine irrinunciabile dell'imperativo morale? Kant fa uso del termine felicità secondo significati diversi, non tutti capaci di fondare la sua dottrina dei postulati. Ma in diversi luoghi, i quali rappresentano un punto culminante nella sua argomentazione, Kant rompe con le ambiguità circa un bene sommo nel mondo e formula in maniera inequivocabile il senso di quella domanda della speranza che si pone in forza dell'imperativo morale. Questo si verifica là dove egli prende in considerazione l'uomo posto di fronte al destino ineluttabile della morte. Quando la felicità ambigua e manchevole che può aver accompagnato la nostra buona condotta in questa vita sta per finire, si impone la domanda della speranza in tutta la sua portata. È la potenza della morte che tutto uguaglia il fine ultimo di una libertà che sta sotto l'obbligazione morale? Di più, all'interno di un orizzonte di immanenza e di caducità, è possibile una obbligazione assoluta? Questo è l'imperativo che la costituzione morale dell'uomo solleva e sulla base del quale si decide della possibilità o impossibilità di una dimostrazione morale di Dio. Quanto all'obiezione che la tesi di una connessione essenziale tra osservanza della legge morale e felicità dell'uomo implichi una morale della ricompensa, occorre distinguere tre questioni. Primo, la possibilità di vivere moralmente bene anche senza credere in Dio. Questa possibilità non viene messa in questione dalla prova morale di Dio. L'imperativo morale è per noi un primum che ci vincola prima ancora che noi poniamo la domanda da dove l'imperativo morale abbia origine e prima ancora che ci poniamo la domanda su che cosa esso porta. Secondo, la questione della formazione della coscienza, cioè la purificazione dei motivi del nostro agire. Ora, l'intenzione autenticamente morale non esclude l'oggetto e il fine obiettivo della buona azione dalla motivazione dell'azione stessa. Al contrario, il rispetto della legge morale altro non è che il rispetto del bene, dal quale solo la legge morale mutua il suo carattere vincolante e al quale essa conduce. Chi wer nimmt uns absolut in Anspruch? Chi ci prende assolutamente, ci obbliga assolutamente? Il bene. Noi non siamo schiavi della legge. Ciò che ci prende, ci obbliga assolutamente è il bene e per il bene. Terzo, la questione metafisica. La nostra intenzione morale è l'intenzionalità dell'essere in quanto bene, cioè in quanto degno di venire riconosciuto, rispettato e promosso da colui che è capace di una presa di posizione libera nei suoi confronti, cioè da parte dell'uomo. Ora, l'essere è buono nella misura in cui, nella situazione concreta, contribuisce al perfezionamento della persona umana. La volontà è buona perché è volontà del bene. La domanda metafisica è la domanda circa il fondamento e il fine dell'imperativo. Ora, la domanda circa il fine, lungi dal degradare la legge morale a strumento in vista di qualcosa d'altro, è in realtà la domanda intorno alla portata ontologica della legge e quindi intorno alla dimensione ontologica dell'uomo nella sua qualità di essere morale. La tesi secondo la quale il fine della moralità è il bene sommo vuole dire che il valore morale va oltre la caducità. il valore morale rimane giunto a perfezione e conservato in quello stato della persona che noi designiamo con il concetto cristiano di salvezza e Kant chiama appunto felicità. La felicità è la configurazione definitiva della morale stessa, è l'essere dell'uomo che ha superato la prova dell'impegno morale. E presupposti per questo essere sono appunto i due postulati, l'esistenza di Dio e la immortalità. Al contrario, la separazione dell'imperativo morale, la separazione di imperativo morale e bene affossa la dignità dell'uomo, in quanto che lo consegna, sia che abbia agito bene, sia che abbia agito male, a un nulla definitivo. E concludo. Dalla prova morale di Dio alla religione della buona condotta. La lunga riflessione di Kant intorno a un itinerario razionale capace di condurre a Dio ha trovato la sua conclusione nella prova morale, cioè in una conoscenza accessibile a ogni uomo, così come ogni uomo sta sotto l'imperativo della coscienza. Ma ciò che Kant designa come fede morale, fede razionale, postulato, ha uno statuto ambiguo. Infatti, la fede morale dice in realtà due cose, e qui riprendo un argomento che è stato trattato anche questa mattina. A parer mio, la fede morale o il postulato dice due cose, che noi non conosciamo gli oggetti postulati e al tempo stesso però che i concetti di questi oggetti sono veri e perciò i loro oggetti sono reali. A secondo che l'uno o l'altro elemento del postulato sta in primo piano, si deve parlare del carattere puramente fittizio o invece del carattere di verità della metafisica postulatoria di Kant. A prescindere dalla tensione che caratterizza la conoscenza di Dio propria di un postulato, una cosa è chiara. In seguito alla sua critica a ogni teologia razionale, Kant fece propria la concezione illuminista la quale vedeva in Dio esclusivamente il reggitore morale del mondo. Se Dio ci si dischiude solamente attraverso la nostra costituzione morale, allora il concetto di Dio è originariamente ed essenzialmente un concetto morale. Conseguentemente le proprietà che contrassegnano questo concetto sono proprietà morali. Una siffatta concezione di Dio che prende volutamente le distanze dalla rivelazione divina e dai dogmi della Chiesa, significava per Kant una conoscenza di Dio valida per tutti gli uomini, al di là della loro diversità di religione o confessione, una conoscenza che li unisce in quella religione che egli, come già Lessing e altri rappresentanti dell'illuminismo, riteneva essere l'autentica religione, la religione della buona condotta. Die Religion des guten Lebenswandels. Più avanti, Kant precisa quali siano i doveri nel cui compimento la religione consiste. Sono esclusivamente i doveri etico-civili degli uomini verso gli altri uomini. Per cui, cito, in una religione universale non ci sono doveri particolari verso Dio. Non c'è dubbio che Kant credeva nell'esistenza di Dio. Ma l'indagine intorno alla sua concezione di Dio indica che alla fine della sua riflessione intorno alla causa suprema delle cose è rimasto solo l'uomo in quanto autonomo, il quale ha bisogno solamente dell'idea di Dio a cui debbono giungere in realtà oggettiva fondata sulla conoscenza teoretica. La nostra conoscenza di Dio ha origine dalla morale. La religione, quale rapporto vissuto con Dio, si risolve nella morale. Grazie. Benissimo.